Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. E nonostante tutto siamo Nova Lab 24, sono in compagnia di Cristina Tagliabue, buongiorno. Ma buongiorno, ma perché nonostante tutto? Ma nonostante tutto è una bella partenza, nonostante tutto siamo qua, se ci pensi. Siamo stati reduci dal Festival del Giornalismo Internazionale della settimana scorsa. Oggi che storia ci porti? Oggi porto storie di donne, sempre quasi di giornalismo quantomeno, non giornalismo ma documentazione, sempre di storie stiamo parlando. Parliamo di storie di ragazze. Titolo della puntata? Titolo della puntata... Stai leggendo? Sì, Cover Girl Culture. Cover Girl Culture, comunque adesso le news. È uscito martedì, dopo il recente successo della reunion del gruppo, il doppio CD con i più grandi successi dei Litfiba, gruppo rock attivo dall'84 al 93, Eroi nel Vento. I Litfiba hanno conosciuto il grande successo dalla scena underground di Firenze al successo nazionale con l'uscita del loro primo album Desaparecido. Dopo lo scioglimento nel 1999, la reunion del gruppo è stata annunciata lo scorso dicembre. Al Palazzo delle Arti di Napoli, il 14 e 15 maggio, si terrà la 17esima edizione del Festival Internazionale di Videodanza. Il festival ha in programma 200 opere da 35 paesi del mondo, film, documentari, clip, short e opere realizzati con l'uso delle più diverse tecnologie. Dalle 16 alle 22 di venerdì 14 e di sabato 15, senza soluzione di continuità, presso il PAN di Via dei 1060. L'accesso alle proiezioni è gratuito. L'Indie Pride Italy è la giornata mondiale dell'orgoglio della musica indipendente italiana. Per ovviare alla scarsa attenzione che i media dedicano alla musica indipendente in Italia, l'Associazione dei produttori indipendenti promuove un incontro il 19 giugno a Bologna. All'incontro seguirà un concerto che verrà ripreso e caricato sul canale YouTube Indie Pride TV. E quindi è Divine, tre modelle bambine, il titolo del documentario di Chiara Brambilla. Noi abbiamo qui Chiara Brambilla, un mestiere difficilissimo, complicato, ma assolutamente affascinante quello della documentarista. Ma prima Cristina Tagliabue, presentiamo Chiara Brambilla, mi sto incartando, con la scheda che hai realizzato su Chiara Brambilla. Oh, tu intanto di buongiorno. Buongiorno, ciao per a tutti. Per cui ce l'abbiamo. Mandiamo la scheda? Mandiamo la scheda. Nata nel 1982, Chiara Brambilla vive e lavora a Milano. Si è laureata nel 2004 presso l'Università degli Studi di Milano in Scienze dei Beni Culturali con indirizzo Cinema e Teatro. Nel 2008 ha scritto e diretto il documentario Lo Zio Sam e il Sogno Bosniaco, prodotto da Mir Cinematografica e DocLab con la partecipazione di Cult Fox, RTSI Televisione Svizzera, ILE Finnish Television e sviluppato con il sostegno del programma Media. Ha vinto il premio Vela d'Oro come miglior documentario italiano al Festival di Bellaria 2008. Il suo primo documentario, Casa Plastica, del 2006, è stato presentato in diversi festival italiani, tra cui il Festival dei Popoli, Visioni Italiane e Bellaria Film Festival 2006, dove ha vinto il premio come migliore opera prima. Allora, Chiara, parlaci del documentario, parlaci dell'idea, parlaci della difficoltà, dici. Allora, vabbè, questo è il mio ultimo lavoro, si chiama Divine. È un film che racconta la storia di tre bambine che hanno 10 anni, quindi sono alle soglie dell'adolescenza, e che sognano di fare le modelle. Qualcuna ci riesce, qualcuna forse un po' meno, e in qualche modo noi vogliamo raccontare la società italiana, insomma, le dinamiche familiari tra le bambine e i genitori, quello che loro sentono, che per noi è sempre stata la cosa più importante, il loro punto di vista, forse quello che ci ha portato a voler fare il film, insomma. Cioè, quindi, insomma, si tratta di tre giovani ragazze, giovani promesse. Io ho visto le immagini di questo documentario, nel senso, ho visto alcune foto, alcuni screenshot delle bambine bellissime. Cosa fanno queste bambine bellissime? Ma allora, sì, sono tre bambine molto diverse, tra di loro hanno storie diverse ed è il motivo per cui poi ci interessava la cosa, perché al di là del mondo della moda e la società dello spettacolo che ci affascinava molto, la cosa che ci interessava è cercare di capire cosa vuol dire avere 10 anni oggi in Italia. E quindi... Tra l'altro si è parlato moltissimo di che cosa vuol dire avere 10 anni, si parla di un'adolescenza che arriva troppo in fretta, di un'industria che produce giocattoli per bambine, che non produce più giocattoli per bambine perché le bambine già diventano adulte molto in fretta. Questa è una realtà molto americana. Tu hai, credo che abbia cercato di raccontare quello che invece è la parte italiana di questa storia. Beh, l'Italia ha delle caratteristiche peculiari molto diverse da quelle degli Stati Uniti. Innanzitutto l'estetica è molto diversa. Probabilmente avrete visto Little Miss Sunshine, che è stato certo un film cult. E l'estetica italiana è molto più soft. In America si vedono queste bambine veramente molto truccate, molto deformate dagli abiti, dal trucco. In Italia si tende, almeno da un punto di vista estetico, a trattare il bambino apparentemente più da conservare un'innocenza. Il bambino modello. Sì. Il no? bambino, modello. Bambino modello, cioè la bambina i cui genitori vogliono far diventare esatto modello, oppure sono già modelle adesso e quindi in realtà guadagnano già adesso come modelle. Ma guadagnano, chi lavora guadagnano a sfilare al PT Bimbo, che è un principale evento insomma di moda per bambino in Italia, guadagnano a fare gli shooting, guadagnano a fare cataloghi, guadagnano molto poco rispetto alle modelle adulte e in realtà non si ripagano, perché io inizialmente pensavo che uno delle motivazioni per i genitori fossero insomma la questione economica, invece poi abbiamo scoperto non è assolutamente così. Bambini e genitori passano un sacco di casting, stanno tantissimo in macchina perché poi spesso arrivano dalla provincia italiana. Sono bambini felici. Tu hai realizzato un documentario. Io ho un pregiudizio. Io penso che poi tutti questi soldi tornano sul lettino dello psicanalista del bambino. È una mia personale convinzione, nel senso che non credo che il bambino debba giocare per forza. Ci sono bambini che possono essere più adulti di altri, bisogna anche seguire le vocazioni. Sì. Però, insomma, quello è un mondo che è stressante ed è complicato per un adulto. Molto, molto. Io credo che qualche soldo ci ritorni, insomma, dietro sul lettino psicanalista. Ecco, tu hai raccontato la bambina e i genitori, hai voluto... Dov'è che hai concentrato la telecamera? La camera ad altezza bambino, assolutamente. Noi proprio raccontiamo la storia attraverso i loro occhi, con le voice over, con le loro immagini, cerchiamo veramente di entrare nel loro punto di vista. Il genitore è molto importante perché poi spesso è il contrappunto, e quindi a volte per adesione, a volte per contrapposizione. E il bambino adultizzato c'è, però non tanto a livello estetico come si può immaginare, quanto anche proprio come saggezza, no? Come comprensione delle cose che gli stanno attorno. Noi abbiamo una bambina che è molto adulta, insomma. Ma che mestieri fanno questi genitori che hanno tutto il tempo per portare in giro i figli, fare sono sacrifici, sono tanti sacrifici. Fanno spesso, noi abbiamo una famiglia di cui il padre fa il poliziotto, la mamma fa la cassiera, un'altra famiglia lavora in un'azienda di trasporti, sono lavori insomma da impiegato, insomma una cosa così, e il tempo va ricavato, però insomma è faticoso insomma gestirsi tutto il tempo libero di cui c'è bisogno. E qual è la motivazione di un genitore per fare tutti questi sacrifici se non sono, come dire, dei soldi che ti ritornano indietro per far fare tutte queste cose? È una cosa che ci siamo chiesti molto anche noi, in realtà non l'ho, cioè lo credo di averlo capito, ma non l'ho mai neanche realmente sentito, insomma avvertito addosso. E non so come chiamarla, una gioia sconfinata nel vedere la bambina sfilare o su un catalogo o in televisione, il fatto che sia lì, no? Che la vedono tutti e che loro stessi la vedono è una magia per loro. È lo spettacolo, è il grande, il piccolo schermo. Sì, c'è una storia che in Italia abbiamo raccontato, no? Tanto, o forse troppo anche, perché poi il miraggio del successo che passa dal video, che passa da questi mondi patinati, è molto nostro, credo. Sì, poi il successo poi è un parolone, in realtà loro ambiscono cose anche molto semplici come la visibilità, insomma, no? Essere una volta su un catalogo è molto lontana, una cosa del genere, dal successo in realtà, però è già molto, insomma, per loro. Qual è il giudizio che dai di questo? Cioè, un documentario, e poi volevo capire un po' meglio il mestiere del documentarista. Il documentario non deve giudicare, deve descrivere, però insomma quando nasce per lanciare un messaggio. Sì, secondo me poi dipende, ci sono tanti tipi di documentari, ci sono documentari molto manipolati e che giudicano molto, ma non è un tipo di documentario che a me piace molto. A me piace un almeno cerco di fare i film che poi mi piace vedere personalmente, e a me piacciono i film che mi lasciano libera di arrivare a delle conclusioni, di pensare, perché poi il film dovrebbe portarti, no, a pensare, a sentire, insomma, a mettere in discussione delle cose di te stesso. E quindi ci abbiamo provato con questo film. Questo non vuol dire che il film non abbia un punto di vista, il punto di vista è chiaro, preciso, però lascia la possibilità, spero, insomma, allo spettatore di farsi una sua idea, insomma, di sentire le cose a modo suo. Già il fatto comunque di fare un film e scegliere un argomento come questo e di stare dietro ad Emily con la Y finale, Rebecca e Lucrezia, no? Comunque mi dà un'indicazione. Tutti i nomi semplici, peraltro. È finito il tempo di Maria Giovanna, eccetera, eccetera. Però è un segno anche questo dei tempi. Chiaro. Noi ci fermiamo un secondo, no, non ci fermiamo un secondo, andiamo ancora avanti perché volevo capire cosa c'era dietro quel noi. Certo. Perché... Perché la domanda? Perché poi il mestiere del documentarista è eccezionale, il sogno di molti, però insomma realizzare un documentario costa un sacco di soldi e poi non tutti entrano in un circuito. Sì, allora il documentario l'abbiamo realizzato con la Mir Cinematografica, che è una casa di produzione che lavora molto sul territorio di Milano ed è una realtà fondamentale, ma anche proprio sul panorama nazionale, dato che veramente è faticoso fare documentari in Italia. Tra l'altro il lavoro è molto al femminile, perché poi le altre due anime del progetto sono Susanna Sguera, che ha curato la produzione, e Valentina Andreoli, che ha fatto il montaggio, e quindi poi ci siamo molto confrontate. È stato un film anche molto personale, perché ci ha tirato fuori delle cose, insomma, dalla nostra infanzia. Ma chi paga? Cioè, nel senso chi paga? Ecco, questo è il problema. Poco romantico. Poco romantico, sì. Allora, il documentario è stato fatto con dei soldi dell'Unione Europea, okay. I media, che ci vuole sempre molto bene. Funziona, uno dei pochi quindi. Sostiene. Sì, con noi ha sempre funzionato molto bene, anche il precedente film l'aveva finanziato il media. Cult, che tra l'altro questo è l'ultimo documentario che produce. E questo l'ultimo non nel trista. Senso l'ultimo perché non ne produce più, no, sì, no, non... Beh, in Italia la produzione, insomma, sta diventando veramente faticosa, perché poi come televisioni avevi Fox e poi Rai 3, ma veramente pochissimo. Infatti questo è il tema che adesso andiamo un po' a sviluppare. Nova Lab 24. Abbiamo parlato di Divine, tre modelle bambine, ne stiamo parlando con Chiara Brambilla, il mestiere del documentarista, prospettive, sai come si fa nelle trasmissioni quelle vere? Prospettive del mestiere, cioè come si diventa documentarista, dove si sbatte la testa? Ma allora, il mestiere del documentarista è un mestiere veramente difficile, credo, in Italia, per due motivi principalmente. Innanzitutto il documentario non è veramente nell'immaginario, no, delle persone, non lo conoscono, cioè noi conosciamo quello naturalistico, quello storico, è un po' lì finisce. Piero Angela. Sì, esatto. Dire Piero Angela, come dire, Piero Angela è bellissimo, beh, bello, io sono appassionato. Certo, certo. C'è a chi piace, c'è a chi a no. A me piace. No, ma soprattutto c'è solo quella cosa lì, e quello è il problema, rispetto poi all'Europa, insomma... E quindi sì, non c'è l'industria del documentario, quando non c'è l'industria non ci sono i soldi, quindi produrre in Italia è veramente difficile, quindi Mir sono veramente dei... Tra l'altro Mir Cinematografica è la casa di produzione di Alina Marazzi, che è un'altra importante regista, esatto, documentarista italiana, e mi domandavo, ma chi è il tuo modello, no? Quando tu hai studiato cinematografia, cioè poi dopo sei uscita con un modello Michael Moore, chi è il tuo modello di ricerca? Ma allora, no, Michael Moore non è che mi faccia proprio impazzire, perché come ti dicevo prima, cioè, mi piace molto. Sì, cioè, documentario... Tutto sbagliato oggi, eh? È andata così. Un po' troppo manipolato per me, proprio non ti dà la possibilità, no, di scegliere. E mi piace molto Herzog, molto, molto. È ghezziana. Comunque, se è difficile il mestiere della documentarista, ancora più difficile è quello dell'artista. Noi abbiamo in collegamento Laura Giardino, buongiorno. Buongiorno. Anzi, buon pomeriggio, sentiamo la scheda che ha realizzato Cristina Tagliabue e poi parliamo subito con te. Laura Giardino, artista figurativa e performer, è nata nel 1976 a Milano, dove vive e lavora. Dal 2004 espone in tutta Italia, sia in mostre collettive che personali. La sua ultima personale, Put the Blame on Mamie, a cura di Ivan Quaroni, è attualmente esposta presso la Galleria Spazio in Mostra a Milano. Attraverso questo lavoro, Laura individua in Gilda, interpretata da Rita Hayworth nel 1946, il tipo della moderna donna inquieta, alla ricerca di un difficile affrancamento dal ruolo impostole dalla società. Laura Gerardino, vai. Stiamo parlando di donne e di donne disegnate da donne. Abbiamo incontrato oggi Laura Gerardino perché in realtà si ricollega un po' al documentario di Chiara Brambilla, nel senso che Chiara lavora sulle donne divine. Laura Gerardino ha fatto una mostra che è a Milano a Spazio in Mostra, che è una piccola galleria in zona Paolo Sarpi, e ha trattato il tema del femminile partendo da Rita Hayworth, che è un'altra donna, diciamo, impossibile, diciamo inesistenza, è un po' come, no, quella è l'icona, insomma, esatto. Rossa, diciamo che occhieggiava un certo mondo che forse non c'è più. Ma perché la scelta di Rita Hayworth? Io ho scelto una femme fatale simbolo. In questo caso Gilda è una femme fatale molto particolare, perché è totalmente innocente di quello che, insomma, viene un po' incolpata nel corso del film. Ed è consapevole di incarnare una figura mitologica più che rappresentare una donna reale. È la femme fatale consapevole di essere una femme fatale, quindi mi interessava questa cosa nel film. Quindi tu hai preso spunto da... Io l'ho definita un'icona, mi innamoro anche di questi termini, ma più che altro di una donna che forse non esiste più. Questo lo chiedo anche a Cristina Tagliabue, perché i personaggi come Gilda sono spariti dal nostro immaginario da un certo punto di vista, nel senso che poi oggi per femme fatale intendiamo donne ben più avventurose e ben più spregiudicate. Ma allora, se posso rispondere io per primo, posso dire io Gilda non l'ho mai visto. Ah, perfetto. Ecco, quindi ho un'idea di come sia fatta esteticamente e mi sembra ovviamente irraggiungibile. Roger Rabbit, un po' Roger sì, Rabbit, esatto, è quello, un po', no? Il mondo che evoca. Quel mondo là. Mi ha colpito molto in realtà la mostra di Laura, perché comunque ti propone dei modelli di donna che sono, come dire, irraggiungibili, assolutamente lontani, e ciononostante vividi, sono lì, cioè sono ancora nell'immaginario di tutti, come se in realtà anche con l'avvento delle Bratz, che sono delle donne che invece hanno, no, un modello completamente diverso, non so, delle bambole con una testa grossissima, il corpo piccoletto, addirittura l'evoluzione forse di Barbie, in qualche modo poi invece una ragazza della mia generazione, perché Laura, possiamo dirlo, no, l'abbiamo detto nella scheda, è del 76, alla fine abbia così riproposto questo modello femminile. Tra l'altro i disegni poi sono molto belli, perché c'è anche questo da dire, insomma, ha fatto veramente un lavoro che è molto toccante, e quindi così, insomma, adesso mi dire, giro la domanda a lei, all'artista. Scusate, qual era la domanda? No, la domanda era perché la scelta di Rita Hayworth, che è un personaggio molto che appartiene molto a una storia che vediamo un po' lontana forse rispetto ai modelli televisivi e di donne che ci vengono offerti. In realtà più che lei, lo spunto era la canzone che lei canta, e un po' proprio anche perché è una figura più simbolica. E quindi rappresenta molto di più per me, cioè è più come spunto per la mostra avevo molte più aperture per quanto riguarda il lavoro. A parte allora, diciamo che sì, forse l'aspetto estetico è un po' lontano da quello che vediamo noi, però ci è comunque familiare. Perfetto, mi sembra che questo sia la chiave, nel senso, poi di fatto è stato più la canzone che l'aspetto, ti abbiamo un po' portato noi fuori strada. No, ma non è che ti avete portato fuori strada, cioè, mi rendo conto che l'aspetto sia una parte che soprattutto nell'arte visiva sia importante, però quello sulla quale, esatto, la mostra gira è un po' la canzone di Gilda. Ecco, Laura, ricordaci fino a quando ci sarà questa mostra? Fino a fine maggio. Va bene, fino a fine maggio, quindi a Milano, in via Paolo Sarpi. Io, il nostro tempo è terminato, ringrazio Cristina Tagliabue, ringrazio Laura Giardino, ringrazio Chiara Brambilla. Grazie, ciao. A domani alle 16.30.